dai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Oh ragazzi, oggi abbiamo un luogo comune qui a Off Topic. Intanto ciao Riccardo. Ciao Alessandro, ciao. Ciao Beppe, come state? Ciao Alessandro, bene, ho appena preso l'antistaminico, quindi ottimamente bene. Ah, ma questi antistaminici a un certo punto uno smette di prenderli oppure... No, li prenderò tutta la vita, credo che sarò destinato ormai a prenderli. Ma sai che una volta ho preso un antistaminico, una pastiglia così grande che facevo... Ma sarà stata da 2 kg almeno, era enorme. E la spezzettavo un pezzettino al giorno, la prendevo, sì. Ma non posso credere che c'era veramente una pastiglia. Quanto era grande adesso, me lo devi dire, scusami. Ma è stata 30 centimetri per 20, era un grande pastiglione. Perfetto. Perfetto, come potete capire, cari ascoltatori, siamo tre, come dire, idioti e cerchiamo adesso di fare una puntata sui luoghi comuni. E il luogo comune di oggi è forse uno dei miei preferiti, credo, che è quello... che dice, che inizia così: ho un amico che è esattamente quello che ha appena fatto Beppe, cioè sostanzialmente sì, ingigantire le cose. Esattamente, ho un amico che, o anche mio cugino, mi ci è venuto in mente preparando questa puntata anche alla mitica canzone di Elio e lo Storie Tese, cioè praticamente quando ti trovi davanti una persona che ti racconta un episodio. E... diciamolo Ale, un raccontaballe, la Treccani tra l'altro dà la definizione, quindi si può dire. Esatto, ah. È il raccontaballe e poi che altro? Non è neanche... Lo sbruffone, sì, esatto, lo sbruffone che cerca di attirare l'attenzione a sé raccontando o esagerando un racconto che però è capitato o a sé oppure ad altre persone. Ecco perché c'è la formula. E cercheremo di capire oggi cosa, perché lo fa, in che modo lo fa... Esatto, e soprattutto come ci comportiamo noi anche di fronte a questi contaballe, anche perché la cosa che stavo pensando mentre stavamo facendo redazione è che spesso si dice ho un amico che, chiedo per un amico, ho un cugino, sempre al maschile, e sembra una cosa tipicamente legata al mondo maschile, no? Cioè un po' sì, al gallo. No, perché sai che io c'ho un amico che una volta mi ha detto che c'aveva la Ferrari nel garage e io gli ho detto andiamo a casa tua allora a vedere nel garage, lui mi ha detto no, perché la Ferrari non posso farla vedere a tutti. Ma cosa? Perché la Ferrari è la mia e ma morale della favola, insomma, non ha mai avuto una Ferrari. No, chiaro, mi sembra chiaro Beppe, no? Sì. Un grande classico. Però con questo vuoi dire che, scusami Ricky, ma con questo vuoi dire che praticamente tra le donne non c'è questa pratica di vantarsi di episodi semileggendari? Non lo so, semplicemente noto che spesso ho avuto a che fare con amici che facevano una gara su questo tema, su questo luogo comune. Le donne sinceramente, cioè ho poca memoria rispetto a questo, però la fortuna è che avremo anche un piccolo contributo Riccardo, di una grande donna. Scusa, io credo che le donne non ti parlassero in quegli anni in cui si diceva ho un amico che, ho come questo vago sentore, però è vero, continua pure. Anche quello è vero, anche quello è vero. Però si fa anche adesso, in che senso in quegli anni? Cioè, non ho capito. Ma non so, perché mi sembra un po' quel meccanismo da scuole superiori, capito? Quando c'era quella balla detta un po' così ingenuamente dal vicino di banco che ti diceva sai che c'ho, sì. Ma sai che ho appena comprato lo scooter e tu gli dicevi ma scusa ma c'hai 12 anni, cioè te ne mancano ancora 2 per prendere lo scooter. Sì ma ce l'ho in cantina e poi un giorno lo userò. Facciamo così, diciamo che la serie A di questo sport incredibile del raccontare balle è durante gli anni del liceo, delle scuole eccetera, però c'è anche da dire che oggi nel mondo adulto quante volte sei all'aperitivo e ti ritrovi a che fare con persone che sparano balle o comunque che la tirano un po', se la menano, no? Cioè, sì. Non tiriamoci fuori da questo, lo facciamo anche noi probabilmente, lo fai anche tu Beppe, dai, tu sei un grande raccontaballe, diciamolo. Io sono il primo raccontaballe della storia, sì, per me non c'è nessun problema, io lo ammetto e mi piace molto in realtà, dai, come tutti gli attori, scusami, ingigantire le cose, cioè un attore quando racconta una roba la fa diventare un pelino più grande, quell'attimo. Ecco, perché si fa questa cosa? Per attirare l'attenzione, per rendersi più importanti all'interno della discussione? Ma in realtà io, non so, io lo faccio per passare meglio il tempo. Cioè se una cosa so che potrà far divertire qualcuno, io cerco di divertire le persone. So, è una roba che mi viene così, cioè mi piace quando la gente si diverte a tavola. Probabilmente è la noia che ti spinge a raccontare bugie. Sì, probabilmente. Una componente, allora scusami, non voglio fare il puritano, ora quello buono. Probabilmente c'è anche una componente di ego che, come dire, che a un certo punto prende il sopravvento. Si parla di ego, effettivamente. Questa è una puntata che parla di ego. Io ho un amico che, non tu, capisci? Questa è la chiave della puntata. Comunque, scusa, pensate, ci sono secondo me tre modi per reagire a una persona che ti dice ho un amico che poi sono anche i tre modi che noi tre di solito abbiamo, ci conosciamo da tanto tempo, io vi ho analizzato e sono venute fuori queste tre modalità. Ma come ci hai analizzato? Ma... Sì, certo, siete le mie cavie da laboratorio, ci chiaro, osserve di notte, c'è una telecamera a raggi infrarossi. E come saremmo? Allora, Beppe fa l'accondiscendente, cioè incentiva la follia delle persone, come avete appena sentito. Cioè, uno racconta che ha un amico che è andato in Antartide a mani nude e a piedi nudi e lui dice, ah davvero, ma com'è tornato? Ma che cosa è successo? E ci va a fondo, fa il minatore sostanzialmente Beppe, perché sì, si diverte. Gli piace esatto. Farsi queste cose. Alessandro invece è della modalità mordo e fuggo, cioè ascolto fino a che mi interessa, ma poi mi levo dai coglioni sostanzialmente. Sì, cioè, tecnicamente sì, ma è quella più sana, io ve la consiglio, ragazzi. Ma insomma. Io mi avvicino col mio bicchiere all'aperitivo, c'è davanti uno sconosciuto, dice una cosa, lo sento e poi dopo, ok, hai Vai superato via. Il limite. Com'è che ci aveva raccontato Marta Cagnola in una vecchia puntata di Off Topic? Hai fatto il jump of the shark, hai saltato lo squalo. Hai fatto troppo. Di solito per le serie televisive. Esatto. E invece io che sono un pignolo... Sì, tu Longoni, allora, il problema di Longoni, scusami Ricky, il problema di Longoni è che lo fa anche con noi, cioè noi, mi ricordo una sera eravamo a fare un aperitivo, a un certo punto mi sono girato, Longoni non c'era più, ma non stavamo neanche raccontando una balla, cioè semplicemente Longoni a un certo punto se ne va. Sì, lo so, è così. Esatto. E invece io che sono un pignolo pedante, vado in opposizione, quindi mi piace proprio andargliela a smontare. Se quindi questa persona dice ho un amico che, dico bene, te tira fuori il cellulare, lo chiamiamo e gli chiediamo se è veramente successo quella cosa lì. Però cioè, per forza. Però Ricky sei una merda, cioè non si fa. Lo so, ho capito, ragazzi. Comunque, la cosa bella è che abbiamo. Cioè, scusami, Ricky, tu se sei al parco e a un certo punto senti uno che dice a una: ti amo da morire, tu cosa fai? Ti avvicini e gli dici adesso muori? No. No, però. Cioè, è ovvio che è un'iperbole, uno sta facendo una narrazione un po' ingigantita della cosa, lascialo sì, fare. Sì, ma non è che dice ho un amico che ha detto un'altra amica che lo ama da morire. Comunque, la cosa bella di questa puntata è che abbiamo coinvolto i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo anche durante le nostre live su Twitch e abbiamo chiesto a loro di raccontarci quella volta in cui un amico gli ha detto che. Allora, ho un ricordo di un mio compagno delle elementari che quando la maestra ha dato i voti di un compito, avendo preso 10, quindi il massimo del voto, si alza dal banco, va verso il muro e tira una craniata contro il muro perché ha preso 10. È una cosa che mi è rimasta molto impressa. Effettivamente. Scusate, ma io non riesco a capire. Cioè, ha preso 10 e quindi dovrebbe essere molto contento. Perché ha tirato Bellissimo una craniata voto. Contro il muro? È l'adrenalina. L'adrenalina, l'emozione cioè, quando sei a scuola, succede forse, ragazzi. Secondo me è stato... Ma non per dichiarare che lui non era un secchione, magari? Cioè, voleva andare in controtendenza al voto, cioè voleva dire io questo voto non lo volevo così bello. No, allora, questo è fin troppo complesso. Secondo me può essere probabilmente che colpito da un'ondata di testosterone. Esatto. Ha detto, io ho vinto, sono il numero uno del mondo e posso spaccare tutto e quindi adesso io spacco la scuola con la mia testa. Secondo me è stata questa il moto che l'ha portato a fracassarsi. Però mi sa che la scuola è rimasta lì e lui il giorno dopo ha avuto mal di testa. Esatto, è rimasta in piedi comunque. Poi la cosa bella di questo luogo comune, ragazzi, è che non si capisce mai se ho un amico che intende, è veramente esiste un amico che ha fatto questa cosa, oppure è la persona che te la sta raccontando che si vergogna di dire che in realtà è stato lui. È il classico chiedo per un amico. Tu dici che questa stessa persona ha fracassato la testa contro il muro e si vergogna di dircelo? Potrebbe, anche perché non è una reazione normale, cioè nulla normale di mente, no, quindi insomma, di certo non è normale. Esatto. È il famoso chiedo per un amico in ambito sessuale, quando uno dice agli altri, ma sapete che ho un amico che gli piace fare sta cosa, ma voi come la vedete? Esatto, datemi un consiglio, scrivetemi. Anzi, tra l'altro potete scriverci a offtopic@radio24.it se anche a voi è capitato che un amico vi ha detto che... Allora, qui con noi per parlare di questo luogo comune diamo il benvenuto ad Enrico Dalbuono. Ciao Enrico, buongiorno, buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, ciao. Ciao Enrico. Allora, Enrico, firma di Rolling Stone, giornalista, collabora anche con l'Inchiesta, Style del Corriere, è in uscita tra l'altro con un libro per la nave di Teseo, quindi una persona che sa scrivere e soprattutto sa immaginare amici che... E infatti la cosa che ti volevo chiedere, Enrico, cosa pensi quando c'è qualcuno che ti dice che ha un amico che... Allora, innanzitutto, ricollegandomi all'audio dell'ascoltatore, volevo dire che anche io ho dato una craniata contro il muro durante... Ma eri tu? Allora eri tu? No, perché la mia è stata preventiva, nel senso che per evitare un'interrogazione di matematica io mi sono sfondato la fronte contro il muro per poter andare in infermeria. Ma non è vero, dai. No, no. È vero. E l'ho saltato. Quanti anni avevi, scusa? Ma ne avrò avuti 17 circa. Sei un idiota, scusami Enrico. Sì, però non ho preso 4, l'avrò preso la settimana dopo. Appunto, perché poi prima o poi arriva la... E poi invece, per quanto riguarda il concetto generale, me l'ha detto un amico, è spesso l'ultimo anello di una catena di Sant'Antonio. Cioè, se non fosse ridondante, se fossimo sinceri, dovremmo dire: mi ha detto un amico che un suo amico gli ha detto che un suo amico gli ha detto, e così via, perché le cazzate sono come delle valanghe, partono cazzatine a forza di rotolare di bocca in bocca, si sfracellano nelle nostre orecchie con proporzioni di cazzate apocalittiche. E poi un'altra cosa, che negli ultimi mesi abbiamo imparato un grande segreto per rendere le storie degli amici assurde più credibili, e cioè sostituire "me l'ha detto un amico" con "me l'ha detto un esperto", che vuol dire un po' tutto e niente. Si leggono meravigliose storie dette dagli esperti, e l'esperto è diventato il migliore amico dell'uomo, e forse lo puoi perfino portare al parco a fare la pipì. Così è anche una buona scusa per uscire in questo periodo. Ma secondo te, quanto spesso, non dico percentualmente, però bilanciando, quando si dice "ho un amico che", in realtà siamo noi che ci vergogniamo perché abbiamo da difendere una reputazione? Allora, è curioso come il concetto di amico trovi una nuova declinazione con gli amici dei social, no? Adesso tutti sono amici, nel senso che abbiamo 5.000 amici su Facebook e cose del genere, ma tutti questi amici sono sempre fighi e perfetti, soprattutto su Instagram. Cioè, le cose imbarazzanti che ci riguardano raramente trovano spazio su Instagram, per dire. E con tutti gli amici, tra virgolette, che abbiamo sui social, pensa te, non c'è mai quello che ha detto la cosa imbarazzante. O se c'è quella cosa imbarazzante, non c'è traccia di quella cosa. Ecco. Se ci pensate, le cosiddette storie di Instagram durano appena 10 secondi al massimo, perché però della perfezione ti rompi subito le palle. Cioè, da Dostoevsky a Philip Roth, chi ha voluto rendere memorabili le proprie storie ha dovuto riempirle di tutte le proprie più inconfessabili meschinità, delle cose più imbarazzanti che aveva detto o almeno pensato. Ma questo vale anche per certo cinema, pensate, non so, a Carlo Verdone. E le storie così diventano memorabili, perché tutti siamo meschini, tutti abbiamo detto o fatto cose imbarazzanti di cui vergognarci. Così, leggendole scritte da qualcun altro, ci sentiamo meno soli della nostra miseria e della nostra ridicolaggine. Un libro di narrativa è l'apoteosi di "me l'ha detto un amico", in un certo senso. Però Enrico, non è neanche troppo vero che nei social appare sempre comunque la perfezione. Instagram, adesso sto pensando, che è quello più vivace, più potente. A volte anche gli stessi uffici marketing dei vari influencer, secondo me, li spingono anche a essere fintamente imperfetti. Secondo me è un'ipocrisia ancora più letale, no? Alessandro, mi viene in mente la classica, la foto di Chiara Ferragni che mangia la pizza, ma in realtà ha una fetta in mano di pizza, ma in realtà la pizza sotto è ancora intera. Quella sì. È stata una foto meravigliosa. Cioè, per dire, ma anch'io, Riccardo, mangio carboidrati, magari lei voleva dire, che bisogna mangiare la pizza anche di quelli vicino a te, non solo la tua. Anche questo è vero. Cioè, sì, gliel'hai chiesto? Hai analizzato? Fai il giornalista bene, per favore. No, però ho un amico che conosce Chiara Ferragni, quindi potrei chiederglielo. No, beh, allora, nel caso di Chiara Ferragni, in realtà secondo me era proprio un fail nella realizzazione delle foto. Quello che intendo io è proprio l'influencer che, invece di presentarsi perfettamente in tinta, truccato, messo bene, eccetera eccetera, si sveglia la mattina un po' sfatto, non ha tanta voglia di fare le cose, è molto umano, no? Però in realtà è fintamente umano. Cosa ne pensi su questo, Andrea? Enrico, scusa. Che è vero, però vedi, non se ne esce molto, nel senso che è la perfezione dell'imperfezione, cioè un'imperfezione artefatta. È come la crepa finta su un vetro per renderlo più riconoscibile. È comunque un'artificiosità dell'imperfezione. Manca comunque la spontaneità, credo. E invece spontaneo è l'audio che ci ha mandato un altro nostro ascoltatore, che racconta di una cosa che a noi maschietti toccherà prima o poi tutti quanti. Come da vostra richiesta della diretta, vi racconterò l'episodio del mio amico che... Il mio amico era il mio compagno di università, lo chiamerò signor G come Giuseppe, per un bel nome lombardo, su Giuseppe. E il signor G a 20 anni aveva dei problemi di salute, noi lo prendevamo un po' in giro, lo chiamavamo Psico G perché secondo noi era solo un po' pazzo. Un bel giorno svanisce dall'università, torna la settimana dopo e gli chiediamo: ah, ma tutto bene, cosa è successo, cosa è successo? E hanno fatto una serie di analisi, di visite specialistiche, tra cui la visita della prostata, e sono svenuto. Noi questo povero ragazzo l'abbiamo preso per il culo 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo di prese per il culo atomiche, e ogni occasione era buona per fargliela pesare. Prese per il culo ovviamente letterali, non concrete, perché anche perché è poi pericoloso per la tenuta psicologica del caro ragazzo. Quindi, allora, adesso, questo povero ragazzo, poniamo che sia vero. Intanto, secondo me, c'è il tema del sesso, Enrico, è un tema in cui, come si diceva prima, spesso diciamo che abbiamo un amico che. Quindi io qua ho il dubbio che il nostro ascoltatore in realtà parlasse di se stesso, A questo mi sorge spontaneo. Però, non so, voi cosa dite? Ti senti toccato, Riccardo, da questa cosa? Ma no, volevo dire che c'è poco da prendere per il culo, perché io l'ho fatta l'anno scorso, l'analisi della prostata, 3 volte, e a parte non essere svenuto, perché è una cosa normalissima per noi maschietti, ma poi insomma non ci vedo nulla di male, non è che bisogna vergognarsi per una roba del genere. Scusami, mi ricordo che tu in realtà non è che dicessi, cioè non dicevi l'anno scorso a un amico che, anzi, hai raccontato tutti i dettagli a noi, sì. Purtroppo magari noi non volevamo neanche saperli, tra l'altro, però. Enrico, ma è vero che spesso e volentieri ho un amico che attecchisce con le classiche 3 S del giornalismo, quindi sangue, soldi e sesso, quindi queste sono un po' l'impasto maschile per rendere la bugia ancora più credibile? Ma sicuramente, se quelle sono le 3 regole, le 3 S del giornalismo, è perché sono i 3 argomenti che stimolano di più la nostra morbosità e la nostra pruriginosità, sicuramente. E quindi questo vale per lo stesso motivo anche nel passaparola tra amici. È chiaro che diventare di per sé il protagonista di una notizia da prima pagina di un quotidiano spesso non fa piacere, perché proprio avendo a che fare con la morbosità si preferisce traslarla su qualcun altro, senza dubbio. Tra l'altro tu hai scritto, Enrico, che oggi come oggi non conta l'intelligenza, ma conta la convinzione e l'ostinazione con cui si ribadisce un concetto. Quindi sembra proprio esattamente il luogo comune, no? Io credo proprio di sì. La gente non ha molta voglia di ragionare, anche perché siamo bombardati da notizie e stimoli costantemente. Per riuscire a captare l'attenzione di qualcuno dobbiamo spararla grossa, quasi sempre è così, o se non la spariamo grossa e proponiamo un ragionamento più pacato e articolato, è probabile che l'attenzione che ci verrà rivolta sarà inferiore. Questo è purtroppo un dato di fatto, almeno sui grandi numeri. Enrico, su questo capitolo io qui leggo che tu hai 3 lauree e ti chiedo, ce n'è una che usi di più delle altre per vantarti con gli amici? Tipo, questa qua è la laurea su cui io dico, ah, questa è la migliore. Sì, allora, sono 3 lauree totalmente inutili, e quindi filosofia, scienze politiche, e l'unica un pochino utile sarebbe russo, di cui ovviamente non mi ricordo niente, se non l'introduzione della tesi in lingua, che quindi è l'unica cosa che ripeto costantemente. Zial eto i diplom noi robote pokazat roli znacimo sta braza andragina tvorcestie. Dopodiché non mi ricordo più niente. Quindi questa è la cosa che utilizzo, sì, assolutamente. Tu invece, Enrico, che bugie racconti? Ma diciamo che, come chi scrive spesso fa, sfogo i miei lati più biechi nella scrittura, e quindi diciamo che la fiction, quando scrivo fiction, è un modo per rendere più tollerabili le bugie. Non so se vi ricordate la frase di Nabokov, che diceva che la letteratura non è iniziata il giorno in cui un Neanderthal arrivò nella valle urlando al lupo con un gran lupo grigio alle calcagne. È iniziato il giorno in cui quel Neanderthal arrivò nella valle urlando al lupo e non c'erano lupi dietro di lui. Proprio perché La fiction, che vuol dire appunto finzione, ha in se stesso il concetto della balla, perché per quanto tu possa scrivere qualche fatto anche successo nella realtà, tu lo manipoli sempre, lo semplifichi, lo interpreti, e quindi necessariamente la fiction è balla. E quindi... anche perché spesso la realtà supera di gran lunga la fiction, no? Mi viene in mente tutto il filone di Tiger King, fiction che vediamo, no? Documentari. Beh, per non parlare di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che è più vero dell'imitazione di Crozza, ad esempio. Enrico, tu hai scritto un pezzo su Rolling Stone che ci ha fatto un attimo sobbalzare dalla sedia, ovvero: non proverò mai l'eroina nell'orgasmo anale, la mia vita ha senso. Ovviamente chiedevi per un amico, no? Assolutamente per un amico, la cui vita era stata insensata, però, quindi... Ok. A proposito di amici, un altro ascoltatore ci ha mandato un audio, è sempre legato al momento della scuola, ed è un po' come diceva Alessandro prima, sembra ritornare questa cosa, questo momento magico della scuola in cui c'era il classico contaballe, e ritorniamo quindi ai tempi delle medie, delle superiori, in cui c'era quell'amico un po' strano che faceva quella cosa che poi veniva raccontata dagli altri. La balla spaziale è quella che si raccontava a scuola mia, al liceo, riguardo tale Capretta. Capretta non era il cognome ma il soprannome, era Capretta, che si diceva venisse, ma pensate, tutti i giorni a scuola con le polpette al sugo della madre in tasca per merenda. Ma com'è possibile? È ovviamente una balla. È una balla, non era una balla. Un giorno scoprimmo che era la verità. Scusate ragazzi, ma io mi chiedo, ma il sugo non colava dalle tasche? Cioè nessuno è mai andato, cioè cosa aveva, una bustina, cos'è, un domo? No, però è vero, me lo sono chiesto anch'io, Beppe, però volevo chiedere a Enrico, su questo luogo comune, quando scopri che l'amico in realtà diceva la verità, la narrazione come cambia? Cioè nel momento in cui Alessandro, questo nostro ascoltatore, ha scoperto che l'amico veramente aveva le polpette in tasca, cosa ti succede? Beh, a me succede che di solito mi innamoro un po' di quella persona, diciamo platonicamente. È giustissima questa cosa. C'è una categoria di persone che le sparano grossissime e di solito le sparano un po' a raffica, a valanga. Te ne dicono talmente tante che tu credi che siano sciocchezze, ma ogni tanto scopri che sono vere. E questo crea un cortocircuito incredibile nella tua capacità di interpretazione. E capita, ci sono quei personaggi che... ogni tanto scopri che quella che sembrava una sciocchezza incredibile poi si rivela la verità. Mi viene in mente un amico di mio papà con cui lui, quando studiava, aveva iniziato a fare commercio con la Turchia, non di hashish ma di pellami, più che altro erano gli anni 70, quindi si facevano produrre dei vestiti un po' da figli dei fiori al Gran Bazar di Istanbul, andavano a prenderli. Poi questo è rimasto a fare quel lavoro e la sua vita si è colorata di eventi assurdi, tra cui vendere chilometri di tappeti a un emiro arabo, e sembravano delle enormi vaccate. E poi ogni tanto, questo poi si è trasferito a Parigi, l'ho conosciuto anch'io, ogni tanto alcune di queste cose si rivelavano reali e io di questo personaggio mi ero follemente innamorato. Comunque Enrico, mentre parlavi mi hai fatto venire in mente che io probabilmente all'80% delle storie che sento ci credo, perché tutto questo scetticismo che voi avete in realtà io non ce l'ho, cioè avrei creduto a qualsiasi racconto. Si vive meglio così, assolutamente. Senti, abbiamo chiesto anche un contributo a una giornalista scrittrice, Lia Celi, e le abbiamo chiesto come mai... questo luogo comune si applica così tanto ed esclusivamente al mondo maschile. Sentiamo cosa ci ha detto. Ciao Off Topic, ciao agli ascoltatori, intanto un'avvertenza. Mi rendo conto che userò qualche stereotipo sessista nel trattare il tema, mio cugino mi ha detto, mio amico mi ha detto, da un punto di vista femminile, ma c'è un fondo di verità. Mi spiego, quando noi donne, ragazze e signore, abbiamo a che fare con un interlocutore maschio, già è così difficile interrompere il suo flusso di coscienza autoreferenziale che quando riusciamo faticosamente a conquistare la sua attenzione, badiamo bene a non dirottarlo su esseri umani che non siamo noi, cioè parliamo in prima persona, a costo di raccontare delle balle su noi stesse, perché se tiriamo in ballo il cugino, l'amico, voi cominciate a chiedervi cosa ci abbiamo fatto in realtà con l'amico e col cugino, magari ve lo immaginate, fantasticate, e quindi addio attenzione. Peggio ancora se parliamo dell'amica o della cugina, perché cominciate a chiedervi se è carina, se ha più tette di noi, perché non l'abbiamo portata, insomma un autogol, specie per me che ho effettivamente due bellissime cugine. Allora cosa facciamo? Vi schiacciamo con l'espertone, citiamo l'espertone maschio letto sul giornale, incrociato al talk show, sentito alla radio, oppure direttamente vi inoltriamo una bufala trovata online, o una catena di Sant'Antonio. Chi non ne ha bisogno in questo momento in cui stiamo tutti cercando soluzioni anche miracolistiche, anche complottistiche, all'impasse che stiamo vivendo? Vi saluto, vi abbraccio in maniera sana e socialmente distanziata, e un bacio anche da parte delle mie cugine, perché no? Ciao! Cioè, sostanzialmente noi maschi siamo degli esseri acefali che abbiamo bisogno... Sì, che fanno costantemente mansplaining. Esatto, esattamente. Però mi ha fatto molto ridere perché è entrata subito nel mood del tipo, ragazzi, ve lo premetto, userò stereotipi e luoghi comuni, ci cascano tutti. Però, Enrico, la cosa bella è che alla fine Lia conferma quello che tu avevi detto all'inizio, cioè abbiamo probabilmente mutato nel 2020 luogo comune, ho un amico che con c'è un esperto che, e questo ovviamente brasa qualsiasi possibilità di contraddittorio. È così, ho notato questa cosa, che sostituendo una parola con un'altra si ha più possibilità di farsi credere, e comunque è vero abbastanza quello che dice Lia, sostanzialmente noi siamo dei piselli con degli amici. Sì, Lia è stata abbastanza apocalittica nella nostra rappresentazione e non mi sento di biasimarla, e quindi sarà molto vicino alla realtà. Ragazzi, volevo leggervi un piccolo pezzo che c'è all'interno di un, anzi scusami, è la prefazione del libro di Jonas Jonasson, che è Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, mamma mia, che scrive, è un bellissimo libro tra l'altro, ve lo consiglio, che scrive così: nessuno ci sapeva stregare meglio di mio nonno materno quando, seduto sulla panchina di legno e chino sul bastone, raccontava le sue storie masticando tabacco. «Ma è vero, nonno?» chiedevamo stupiti noi nipoti. «Quelli che dicono soltanto la verità non sono degni di essere ascoltati», rispondeva il nonno. Effettivamente a questo punto io, che sono molto razionalista, credo che ci sia proprio bisogno del credere a qualcosa, e se no, se viviamo solo nella realtà, diventa tutto abbastanza sterile. Ma sì, dai, più balle per tutti. Enrico, in chiusura, raccontaci una balla. Sono vestito in smoking con una pettinatura perfetta e il viso sbarbato. Grazie mille, Enrico. Questo bene. Perché, come vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, a causa di quello che sta succedendo in giro per il mondo, ognuno sta conducendo da casa propria, da casa sua, e quindi Enrico, ti ringraziamo perché sei stato così disponibile con noi anche da casa tua e anche con tutta la tecnologia che all'inizio si sembrava avversa. Grazie mille. Ciao ragazzi, a presto. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Alessandro, ricordiamo i nostri contatti se volete seguirci. Noi siamo quasi ogni giorno, lunedì, mercoledì e venerdì, live su Twitch, anche la domenica pomeriggio, e poi non mi ricordo gli altri contatti. Ale, se vuoi ricordarli tu. Beh, allora, innanzitutto trovate tutte le puntate di Off Topic su tutte le principali piattaforme podcast, quindi iTunes, Google Podcast e Spotify. Poi ci trovate su Facebook, Off Topic - Radio 24, ci trovate su Instagram, Off Topic 24, potete mandarci dei WhatsApp audio o scriverci al 340 8303 758, e per chi di voi ha Telegram può aggiungersi sul nostro gruppo Telegram, che è Off Topic - Radio 24. E sapete che ho un amico che segue Off Topic? Non ci si crede. Pazzesco, incredibile. Ciao! Ciao. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.